Linee d'ombra di Matteo Caccia. Era un sabato sera, mi ricordo che stavo a casa, ecco, in cucina con mamma e nonna, quindi sono stati 13-14 anni forse. Disegnavo e ascoltavo la TV. A un certo punto compare la Carrà. Io volevo ballare come lei. Quindi lascio il mio disegno lì sul tavolo e inizio a ballare. Storia di un bambino che scopre l'elettricità, di un'imitatrice della Carrà e del campione olimpico più improbabile di sempre, in una puntata che si intitola Incidenti a lieto fine. Dove l'hai presa quella motocicletta? Non è una motocicletta, tesoro, è un chopper, dai, andiamo. E la mia Honda che fine ha fatto? Mi dispiace, piccola, ma non esiste più la tua Honda. E ora, per favore, vuoi scendere? Forte, andiamo! Sei ferito? No, forse mi sono solo rotto il naso. Una chiamata, monta, dai. Piccola, per favore, tesoro, la vuoi capire che dobbiamo andarcene? Cazzo, Sani! Scusa, vieni qui, scusa. Sei stato via così tanto che mi sono venuti i brutti pensieri. Mi dispiace, non volevo farti preoccupare, va tutto bene. Com'era la colazione? Era buona. Hai preso le frittelle no, con tanti mirtilli? No, non ce le avevano le frittelle e i mirtilli. Ho dovuto prendere la panna cotta. Sei sicuro di stare Amore, bene? Amore, da quando ti ho lasciato ti assicuro che questo è stato in assoluto il giorno più incredibile della mia vita. Forza, monta, ti racconto tutto. Dai, sali su. Dobbiamo andare. Forza, sali su. Ma questa motocicletta di chi è? È un chopper, piccolo. Sì, questo chopper di chi è? Di Zed. Chi è Zed? Zed è morto, piccola. Zed è morto. Io credo che da Pulp Fiction si potrebbero estrarre migliaia di citazioni. Probabilmente ogni battuta che Quentin Tarantino ha scritto per questo film potrebbe essere estrapolata, e forse per l'aura che ormai ha intorno a sé questo film sembrerebbe straordinaria. Qui è Bruce Willis che, dopo averne vissute di ogni, va a prendere la sua compagna perché devono scappare, e lei insomma si mette a frignare perché è stato via tanto, e lui ovviamente non le racconta nulla di tutto quello che è successo, che è stata una sorta di girone infernale. E poi il finale, Zed è morto, insomma, Pulp Fiction, che altro c'è da dire? Benvenuti a questa Linea d'Ombra, ovviamente vi raccontiamo storie. Lo facciamo tutti i giorni, dalle 15 alle 16 qui a Radio 24, da lunedì al venerdì. Cerchiamo di raccontare delle storie, col vostro aiuto, ovviamente, le storie che ci mandate a lineedombra@radio24.it, che hanno un confine nel mezzo, che hanno una separazione, hanno un prima e hanno un dopo. Possono essere delle cose minuscole che hanno modificato leggermente la vostra vita, un episodio dell'infanzia, un incontro con una persona, una vacanza che vi ha fatto scoprire qualcosa del mondo o di voi anche, perché no? Oppure possono essere invece cose macroscopiche, possono essere, che so io, momenti complicati che avete attraversato, esami straordinari che vi hanno reso delle persone diverse, oppure ad esempio, non so, mi sembra impossibile che capiti, ma superare, passare indenni una pandemia mondiale con tutto il mondo chiuso in casa per 2 mesi. Si parla proprio di cose futuribili, ovviamente quasi impossibile ad immaginare, ma tant'è, si raccontano storie qui a Linea d'Ombra e lo facciamo anche grazie al vostro aiuto. Tra l'altro, da ormai una settimana a questa parte abbiamo inaugurato una nuova piccola parte di questo programma, perché sempre in quel mondo che sembra incredibile possa accadere, se da quel mondo vi abbiamo raccontato, perdonatemi, le storie di diari della quarantena, cioè i diari di come era cambiato il mondo durante quel periodo in cui tutto era chiuso, ora che in teoria si è riaperto, in teoria in alcune parti, ricordiamo soprattutto per i poveri genitori a casa che cercano di lavorare da remoto, o peggio sono obbligati ad andare in ufficio, ricordiamo che invece le scuole sono ancora chiuse e quindi i ragazzi sono belli, liberi e disperati a casa. Ma disperati non lo so, dipende dai casi, ma tant'è, dicevamo, in teoria dal 18 maggio si è di nuovo riaperto tutto, e quindi quello che stiamo raccontando, come sempre facciamo attraverso le storie, stiamo cercando di frequentare questo mondo, stiamo cercando di frequentare questo periodo, di raccontarlo a modo nostro attraverso i vostri diari. E quindi, se abbiamo raccontato i diari della quarantena, ora siamo pronti a raccontare i diari della ripartenza. Linee d'ombra@radio24.it è sempre l'indirizzo questo, qui mandare le vostre storie, che storie ci vedete mandare, quello che volete che abbia a che fare con questa ripartenza, e quindi pagine di diario del primo giorno che avete messo piede fuori di casa, delle sensazioni, delle persone che avete incontrato, di quando siete andati dai vostri genitori, non li avete abbracciati perché non si può fare, ma li avete visti da lontano, oppure siete ripartiti con un'attività, con un locale, con un'attività commerciale, oppure avete riaperto gli uffici. Insomma, qualunque ripartenza abbiate vissuto e frequentato in questi giorni, ce la raccontate e noi siamo felici di raccontarla per voi qui dai microfoni di Radio 24, linee d'ombra, chiocciola, radio24.it. Ora mettetevi comodi che cominciamo a raccontare in una puntata che si intitola Incidenti a lieto fine. Era l'estate del 1986. Io e la mia famiglia abitavamo in centro. Io trascorrevo le giornate nello stanzino che mio padre aveva attrezzato con materiali e utensili del suo lavoro. Lui era un tecnico della SIP, che poi divenne Telecom. Io passavo le giornate lì dentro, tra tester, cavi telefonici e relè. Mi sentivo come Pinocchio nel paese dei balocchi. Una mattina di luglio mia madre esce per fare la spesa. C'era un piccolo supermercato quasi di fronte a casa. Io nello stanzino a fare invenzioni. A un certo punto attacco una spina con un cavo con dei fili scoperti alla presa di corrente. Inavvertitamente il mio dito medio della mano destra tocca un filo scoperto. Ricordo nitidamente la corrente che mi attraversa, ricordo le urla. Accorre mia sorella di 3 anni più grande di me, che capisce la gravità della situazione e corre a cercare mia madre al supermercato. Mia madre era alla cassa a pagare quando entrò mia sorella gridando «Mamma, mamma, corri a casa che Massimo sta morendo!». Io nel frattempo ero riuscito a staccarmi e mi ero rannicchiato sulla poltrona in salotto. Ricordo la puzza di carne bruciata, ricordo una debolezza mai provata e non riuscivo più a smettere di tremare. Quando mia madre entrò in casa e capì cos'era accaduto, me le diede di santa ragione. Non ho mai compreso la sua reazione. Voglio dire, invece che abbracciarmi e coccolarmi, giubbotte. Solo quando sono diventato papà di Luca ho capito il perché di quelle botte e mi sono odiato per avere un po' odiato mia madre. A proposito di incidenti a lieto fine, la prossima storia è la storia di Valentina, che mescola un ricordo del passato di quelli della mia generazione, che sono i pennarelli carioca, quelli col tappino bianco con dei buchi, dei forellini trasparenti in testa, probabilmente per far respirare un po' l'inchiostro, e Raffaella Carrà in televisione. Come possono i pennarelli carioca e Raffaella Carrà causare un incidente a lieto fine? Beh, ce la racconta Valentina. La storia risale a quando avevo tra i 10 e i 13 anni, forse, non ricordo bene. Era un sabato sera e stavo in casa con mia madre e mia nonna a guardare la TV. Guardavamo lo spettacolo del sabato, che forse poteva essere fantastico. Mentre osservavo la TV, stavo facendo un disegno con dei pennarelli carioca. Disegnare mi è sempre piaciuto molto. Quando disegnavo, mi piaceva incastrare il tappo dei carioca sulla punta della lingua. Le mie amiche ed io lo facevamo sempre, ci divertiva. Non so perché, ma ci piaceva incastrare questi tappi sulla punta della lingua. E a volte anche più di uno per volta. Forse sarà capitato anche ad altri della mia età, ma tant'è. Disegnavo e ascoltavo la TV. A un certo punto compare Raffaella Carrà. All'epoca la Carrà ballava alla grande. E io volevo ballare come lei. Quindi lascio il mio disegno sul tavolo e comincio a danzare come Raffaella Carrà, il Tuca Tuca. Ballo, salto, faccio piroette. Poi, buttando indietro la testa con il tipico movimento della mano di Raffaella Carrà, il tappo, quello che avevo tenuto sulla punta della lingua, mi finisce in gola. Eh già. Io ballavo, simulavo, ecco, i balletti che vedevo in televisione, e anche perché in cucina da mia madre c'è una porta finestra e quindi io ballando mi specchiavo. E io non mi sono spaventata, solo che mi sono girata e ho detto: mamma, il tappo non c'è più. Mi giro verso mia madre, che non si era accorta di nulla, e dico: mamma, ho ingoiato il tappo. Mia madre va nel panico, comincia a battermi sulla schiena mentre con l'altra mano afferra la cornetta e telefona a un medico amico di famiglia, neurologo peraltro, gridando forsennatamente quello che mi è successo. Nel caos del momento lei non si è accorta che io respiravo tranquillamente come sempre. Non ero diventata cianotica, non stavo tossendo. Quello che le dice il medico al telefono è: stai tranquilla, tra qualche giorno salta fuori. E infatti è andata così, la natura ha fatto il suo corso. Dopo un paio di giorni il tappo è saltato fuori. Per fortuna avevo preso la giusta via e non è successo niente di grave. Mi piaci, mi piaci, mi piaci tanto, tanto, sembra incredibile ma sono cotta di te. Mi piaci, mi piaci, mi piace tanto, tanto, questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama Tuca Tuca Tuca, l'ho inventato io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, ti voglio. E giusto nella puntata di ieri di Linea d'Ombra abbiamo sentito la storia di Paolo, che poi abbiamo ovviamente sentito al telefono, che ci ha raccontato quello che fa. Cioè, lui ha un'associazione con cui si occupa di fare corsi di primo soccorso per insegnare alle persone ad aiutare soprattutto i bambini con i problemi legati in particolar modo alla disostruzione. In parte sarebbe perfetto che Valentina e Paolo si incontrassero, anche se Valentina nella storia che ci ha raccontato non ha avuto problemi di disostruzione perché il tappo del pennarello è andato giù dritto nello stomaco. Pronto, ciao Valentina, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. In che zona dell'Italia vivi, Valentina? Siamo nelle Marche, in provincia di Ancona, un paesino che si chiama Monzano. Quindi un posto incantevole sulle colline marchigiane da cui si vede il mare, io me lo immagino così. Il mare si vede, sì, un po' lontanino, però in macchina un quarto d'ora ci si arriva. C'è il verdicchio. Verdicchio, certo. Come sono passate questi due mesi di chiusura dentro lì da voi? Tu hai lavorato o sei rimasta a casa? No, io sono rimasta a casa quasi due mesi, dal 12 marzo, poi abbiamo riaperto il 4 maggio e adesso ero appunto in ufficio che pulivo. Ogni volta che viene un cliente pulisco tutto. Che di cosa ti occupi? Di cosa si occupa l'azienda? Sono in una fabbrica che produce materassi. Materassi italiani, quindi immagino che, diciamo, spingano moltissimo in azienda sul fatto che sono materassi italiani veri, originali. Per forza, sì sì, 100% made in Italy, la fabbrica è dal 1960 sul mercato. Quindi è storica. Okay, proprio tipici esempi di imprenditoria, di storica imprenditoria italiana. Esatto. Senti, come stanno andando le cose? Hai il polso della situazione? Ci sono grandi difficoltà benino, per la ripartenza? Benino. Okay. La gente viene, okay. Telefona, si informa, quindi Si sdraia sulle buste di plastica, perché per tenerli puliti li abbiamo sigillati nelle buste, però almeno un pochino li possono provare. Perché ovviamente si possono provare i materassi, cioè uno viene, no? Ha bisogno di sdraiarsi per capire sì, com'è. Sì, sì, Del coronavirus li tenevamo proprio aperti, adesso li ho messi dentro, certo, le buste. Adesso, ovviamente. Okay. Senti, andiamo al pennarello. Dunque, innanzitutto l'immagine di te che balli il tuca tuca con la Carrà davanti, un'immagine straordinaria che ricorda molto, io credo che io e te abbiamo più o meno la stessa età, che ricorda moltissimo la mia infanzia, nel senso che io non ballavo il tuca tuca, però mi ricordo che il sabato sera ci si riuniva davanti alla TV a guardare, cos'era, Fantastico probabilmente. Sì, penso Fantastico, adesso non ricordo quale edizione, però sicuramente sarà stato Fantastico. Senti, che rapporto hai con la Carrà oggi? Mi piace, dai, un ricordo d'infanzia. Il problema è che in casa di mia madre, nella cucina, c'è una porta finestra, quindi io la usavo come specchio e ovviamente da bambina vanitosa ballavo e mi specchiavo e imitavo la Carrà o la Cuccarini, forse dopo anche la Cuccarini, non ricordo. Tu, certo, tutte te le sei passate, giustamente, tutte le più amate dagli italiani. Senti, mi spieghi, Valentina, come facevi e come facevate tu e le tue amiche a incastrare il tappo sulla lingua? Era quell'esercizio per cui si toglieva un po' di... era come se fosse sottovuoto, giusto? Sì, crei un vuoto d'aria, il tappo rimane incastrato sulla punta della lingua, mentre colori, usi il pennarello, poi lo richiudi. Fammelo dire, giusto per fare servizio pubblico, a tutti i ragazzini all'ascolto, non provatelo a casa. No. Fatelo a casa, perché a parte che non so se esistono... No, esistono ancora i pennarelli. Sì, ancora esistono. E in più temo, ho paura che quella cosa funzioni con qualsiasi tappo di qualsiasi pennarello. Quindi ripeto, disclaimer, non fatelo a casa. Tu hai dei figli, Valentina? Sì, abbastanza grandi ormai. Ah, ok, sei tranquilla. Solo pastelli a loro, niente pennarelli. Ma poi non hanno mai avuto una gran passione per pitturare. Il maschio proprio no, la femmina nemmeno. Invece a me è sempre piaciuto tanto. Senti, loro come la stanno vivendo questo rimanere a casa? Sento moltissimi genitori coi figli che hanno pareri diversi. Alcuni dicono, guarda, mio figlio sta benissimo a casa. Altri che dicono, sono disperata, lui non vede l'ora, o lei non vedono l'ora di uscire. Loro come la stanno vivendo? Allora, il più grande, Lorenzo, è perso nella PlayStation. Quindi ci siamo capiti. Ormai ce lo siamo giocata. Però ogni tanto comunque esce, adesso gli permettiamo di fare la passeggiata con gli amici perché altrimenti sono reclusi. Certo. La ragazzina Giorgio di 13 anni invece l'ha sentito un po' di più e la sera è un po' agitata, sente più il bisogno di uscire, però gli facciamo fare le videochiamate, insomma, e così cerchiamo di passare un po' in sordina. Poi abbiamo anche un nonno, quindi abbiamo paura, poi se i ragazzi si dovessero contagiare, di poi contagiare anche il nonno, quindi cerchiamo di stare molto attenti. Certo, insomma è una questione che riguarda un pochettino tutti, anche perché nelle Marche i numeri non erano proprio magnifici, o dico male, c'è stata una... La zona più pericolosa era Pesaro, Fano, il nord, noi certo. Siamo un po' più in giù, però anche qui degli amici infermieri mi hanno detto che ci sono stati dei giorni abbastanza intensi. A questo proposito ripetiamolo, proprio perché diciamo infermieri e ospedali sono impegnati a fare altro, non provatelo a casa col tappo dei karaoke. Senti Valentina, ti ringrazio, perché io sono molto affezionato a storie come questa, perché Linee d'Ombra, un po' come in generale i programmi che faccio da qualche anno a questa parte, che raccolgono le storie di vita delle persone, si compongono di storie terribilmente diverse tra di loro. Alcune sono macro storie che incidono nella vita delle persone, invece altre sono piccoli, come dire, piccoli galleggianti di memoria che a un certo punto salgono in superficie, ci vengono in mente e ci viene voglia di raccontarli. E questo, anche se è un piccolo episodio della tua vita, racconta una cosa di te, di un periodo storico di questo paese, e quindi in qualche modo una storia che io credo abbia molto molto senso di essere raccontata, e quindi ti ringrazio anche per questo. Grazie a tutti, grazie a te, e in bocca al lupo per tutto. In bocca al lupo, grazie Matteo. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Thank you. girl who wouldn't go and change with the girls in the change room. And when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it. Incidenti a lieto fine, si intitola la puntata di oggi, l'abbiamo capito tramite le due storie degli ascoltatori, dei due ascoltatori, in particolar modo quello di Valentina che abbiamo sentito poco fa, ma tra poco sentiamo invece una storia che arriva dal mondo dello sport, una storia che ha davvero dell'incredibile, una storia anche abbastanza nota, che risale alle Olimpiadi di quasi 20 anni fa, di 18 anni fa, per l'esattezza, il protagonista è Stephen Bradbury e ha a che fare con gli incidenti, ma soprattutto ha a che fare con un grande lieto fine. Tra pochissimo, ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a raccontare a Linee d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Ciao, sono Barbara da Nuoro, I love my radio. Ciao, sono Anna da Cremona, I love my radio. Ciao, sono Rosaria da Napoli, I love my radio. Gli italiani amano la radio. La partecipazione del pubblico ai programmi della radio è aumentata di oltre il 27%. Il tempo speso in ascolto digitale della radio è aumentato del 61% ed è l'amica sempre vicina a 37 milioni di persone. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Linee d'ombra. Stephen Bradbury oggi ha 42 anni, è australiano ed è stato un atleta professionista di pattinaggio short track. Nel corso della sua carriera ha vinto 3 medaglie ai campionati mondiali di short track e 2 alle Olimpiadi, la maggior parte delle quali fra il 1991 e il 1994. Lui però è diventato celebre improvvisamente grazie alla vittoria nei 500 metri alle Olimpiadi invernali di Salt Lake City nel 2002. Fu la prima medaglia d'oro nella storia dell'Australia alle Olimpiadi invernali e la vinse in un modo pazzesco e fortunoso. Qualcuno negli anni si è addirittura chiesto se quella di Bradbury sia stata la vittoria più fortunata alle Olimpiadi. In questa puntata che si intitola Incidenti a lieto fine, la seconda storia di oggi è esattamente la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. All'inizio della sua carriera, Bradbury era considerato un pattinatore piuttosto promettente. Nel 94, all'età di 21 anni, aveva già ottenuto 3 medaglie ai mondiali di short track, sebbene tutte in gare di staffetta, e un terzo posto alle Olimpiadi invernali di Lillehammer in Norvegia. Poi, nel 94, durante una gara di Coppa del Mondo, ebbe un gravissimo incidente proprio durante la gara. Un pattino di un avversario gli trapassò il quadricipite da parte a parte. Perse 4 litri di sangue, gli diedero 111 punti di sutura, ma si riprese. Tornò a buoni livelli e gareggiò alle Olimpiadi del 1998. Andò male, fu coinvolto in scontri con altri pattinatori e uscì praticamente subito. Due anni dopo, nel settembre del 2000, Bradbury ebbe un altro incidente, stavolta in allenamento. Batte la testa contro il bordo della pista, si ruppe il collo e due vertebre. Alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002 arrivò da atleta praticamente finito, con due gravissimi infortuni alle spalle e anni di risultati mediocri. Si iscrisse comunque a tutte e quattro le gare per atleti di short track, staffetta squadre, 500, 1000 e 1500 metri individuale. Partecipò alla gara dei 1000 metri e vinse la prima batteria. Ai quarti di finale però arrivò terzo e venne eliminato. Nello short track, infatti, passano sempre i primi due classificati, ma un giapponese, che era arrivato 7 decimi avanti a lui, fu squalificato e quindi Bradbury fu ripescato in semifinale. Nella semifinale, che si disputò lo stesso giorno dei quarti, Bradbury partì malissimo. L'allora commentatore della Rai, Franco Bragagna, dopo appena una curva della gara, commentò: «Fuori dalla lotta, quasi certamente, c'è solo Steve Bradbury». Bradbury racconta che la sua strategia era stare dietro e aspettare che qualcuno facesse un errore o che ci fosse uno scontro. Durante l'ultimo giro accaddero entrambe le cose. Un coreano, che era secondo, perse l'equilibrio e finì a bordo pista. Nel rettilineo finale Bradbury era ancora al quarto posto, ma un giapponese scivolò e si tirò dietro un canadese. Da ultimo che era, Bradbury si trovò a entrare in finale come secondo classificato. «Speravo soltanto di trovare un'energia inaspettata nelle mie gambe», racconta, «ma ero piuttosto scettico a riguardo. Ero il più vecchio di tutta la competizione. Devi correre 4 gare in 2 ore e ti fanno fare solo mezz'ora di pausa. Non era realistico per me fare 4 gare in quel lasso di tempo. Non ero più nel fiore degli anni. Non avevo più le capacità di recupero di un tempo». You were uninhabited, speaking in tongues in the night. I wasn't having it. I could tell that something wasn't right. Why don't you come to bed? Instead of stumbling into the light of medicine cabinets, shaking up pills left and right. Right. Who's giving up the most? No one's gonna give you a medal. Who's giving up the ghost? Oh, wouldn't you like to know? The competition rages. This nocturnal dance. The misery's contagious. We are Olympians. In finale Bradbury adotta la stessa strategia di gara. Resta dietro. Fin dall'inizio resta lì ad aspettare che gli altri sbaglino. E anche stavolta, all'ultima curva dell'ultimo giro, succede qualcosa. Il cinese Li Yaun, terzo, inciampa dopo un contatto con l'americano Apollo Hono e va a sbattere contro il bordo della pista. Cadendo, tocca con la mano sinistra il pattino destro del coreano Han Yeon-soo, che rimane in piedi per una frazione di secondo e poi va a sbattere contro l'americano che gli sta davanti. Il canadese Turcotte, che sta arrivando poco dietro, se lo ritrova praticamente fra i piedi e cade anche lui. Bradbury è così indietro che quando passa nel tratto dello scontro i suoi avversari sono già tutti scivolati a bordo pista. Negli ultimi metri, quando capisce che sta per vincere, sembra persino rallentare. È l'unico rimasto in piedi, di nuovo, e vince la medaglia d'oro. And Ono, here's the bell. One lap for gold. He's reaching back for one more gear. Trying to hold up Lee. They bump. They bump. Oh, a total wipeout. And Bradbury wins. Steven Bradbury in Australia across the line. Ricorda Bradbury: non ero sicuro se avessi dovuto festeggiare oppure andare a nascondermi in un angolo. Nelle interviste poco dopo la gara, Bradbury dice di essere l'uomo più fortunato del pianeta. 4 giorni dopo la vittoria nei 1000 metri, le Poste australiane dedicarono a Bradbury un francobollo in cui posa con la medaglia. Alla fine delle Olimpiadi, Bradbury si ritira dall'attività agonistica. Recentemente ha pubblicato un'autobiografia intitolata Last Man Standing, l'ultimo uomo rimasto in piedi, in cui racconta che divenne così popolare che ancora oggi viene fermato in continuazione per una foto o un autografo. Oggi è uno speaker di discorsi motivazionali nei quali descrive la never give up attitude, cioè l'atteggiamento di chi non molla mai. Sul suo sito ufficiale Bradbury appare in video di 14 secondi nel quale, con il suo buffo accento australiano e la medaglia olimpica al collo, sostiene di poter aiutare chiunque a migliorare l'atteggiamento mentale e puntare a loro. Nel frattempo, doing a Bradbury, cioè fare una bradburata, è diventata un'espressione gergale in Australia e anche nel linguaggio sportivo più esteso, che significa vincere in seguito a circostanze miracolose. Più in generale, Bradbury è diventato oggetto di una strana ammirazione e popolarità, sia fra quelli che credono sia stata una sorta di vincitore per caso, sia fra quelli che lo ammirano per non avere comunque mollato mai. Ma anche questo è controverso. Si potrebbe dire invece che Bradbury ha mollato subito e ha sperato che le cose per lui funzionassero comunque. Everybody's made a play, that's what they used to say. Truth stepped on a song. Now everything there was big and small, just little crying robots. Program me, I wanna win the race. I wanna find a place where the king locked up the princess. Jump the fence, drink a little bit. Red wine, mistakes, apologies. Sky. Jupiter says, oh me, oh my, oh why, his name always changes. I've been through some strange days. What's the matter, is the feast not fat enough? Up the ladder with your feet, reaching with your hands. You can feel it and dream it, I know you wanna believe it. Just steal it, take a piece of the sun. Drink some red wine, mistakes, apologies. And the song, red wine. Perché di Bradbury effettivamente ci si ricorda, per chi se la ricorda, solo di quell'immagine, cioè tutti quanti che finiscono a terra e lui che ci passa in mezzo quasi come un messia e lentamente va a vincere la medaglia d'oro totalmente inaspettata per l'Australia in quella disciplina, soprattutto nelle Olimpiadi invernali. Insomma, è molto più complessa di così, perché c'è arrivato in quella finale e c'è arrivato esattamente in quel modo. La storia che vi abbiamo raccontato noi l'abbiamo letta sul post firmata da Luca Mesculin e si intitola proprio Stephen Bradbury, l'ultimo rimasto in piedi, The Last Man Standing. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Quante volte ascoltando le nostre storie ti è capitato di pensare anche io ho vissuto una cosa simile, anche io ho una storia da raccontare? Ecco, se ti è successo hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso, un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un momento di passaggio, un confine tra chiaro e scuro, tra luci e ombre. Quando ti sei innamorato, quando hai scelto di cambiare le cose, quando da ragazzo un avvenimento anche piccolo ti ha segnato per sempre. Piccoli confini, sottili linee d'ombra che hai varcato. Scrivilo e spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. Quante possono essere le ripartenze? Possono essere ovviamente un numero infinito, soprattutto se siamo stati bloccati per due mesi, se siamo stati chiusi in casa per due mesi, se ci siamo fermati e in qualche modo appunto siamo ripartiti, ciascuno a modo suo. C'era qualcuno che probabilmente la ripartenza non l'aveva pianificata, ma aveva un appuntamento ben preciso per una data e quindi, come nel caso del prossimo diario che vi racconto, quasi contravvenendo alle regole, in realtà no, perché era previsto dal di PCM o di CPM, faccio sempre confusione, anche poter fare cose come questo. Però di fatto un rogito, cioè l'acquisto di una nuova casa, è a tutti gli effetti una grande ripartenza. Ciao, la mia ripartenza è cominciata il 15 maggio. Dopo 2 mesi murata in casa perché mi facevo scrupolo ad uscire anche per la minima esigenza vitale, anticipando di 3 giorni sulle aperture dell'ultimo DPCM per motivi che ero sicura fossero giustificabili, sono uscita. Era il giorno del rogito della mia nuova casa. Ed è stata una girandola di incontri ed emozioni che mi hanno fatto l'effetto del risveglio di Biancaneve dal sonno avvelenato nel bosco. Alle 8.30 sono in banca a ritirare l'assegno circolare. Do il nome al buttafuori che mi trova nella lista come ai tempi della discoteca. Si assicura che io abbia guanti e mascherina e mi fa entrare. Alle 9.20 sono sotto l'ufficio del notaio, incontro la mia agente immobiliare che mi consegna dei documenti ma non può salire con me. Lei è uscita col cane per essere sicura di potermi incontrare e io conto anche il cane negli incontri di oggi. Ore 9.30, salgo e comincio 1000 procedure con la segretaria, un collaboratore del notaio, il funzionario della banca, tutta gente mascherata che entra, mi fa firmare cose ed esce. La signora che vende è già arrivata, chiacchieriamo un po', aspettiamo suo fratello che si è perso fra le palazzine tutte uguali della zona commerciale e lei mi anticipa che lui è un po' polemico. Sono 2 ex insegnanti in pensione, 2 fratelli, e nel complesso la cosa mi fa simpatia. Dopo 20 minuti arriva anche lui, lo sentiamo vociare alla reception. Per qualche motivo ha frainteso la questione dei guanti e si è presentato con dei guanti di lana. Dopo un po' di battaglia lo disinfettano tutto, gli alzano la mascherina sul naso e gli infilano i guanti di plastica sopra a quelli di lana. Alla fine entra il notaio, facciamo tutta la cerimonia, che vivo con l'emozione con cui altri forse vivono il giorno delle nozze, e mi consegnano le chiavi. Esco, mi precipito a vedere la mia nuova casa. Finalmente si avvicina il momento in cui dopo tanti anni tornerò a vivere a Padova. Basta campagna, basta cimici, basta vicini di casa che recitano il rosario col megafono alle 6 di sera. Usciti dall'appartamento chiamo la mia amica Sabri perché abbiamo concordato un incontro casuale. Sono gli ultimi 2 giorni in cui ancora le amicizie non sono considerate affetti stabili. È quasi mezzogiorno. Ci vediamo davanti alle poste di Madonna Pellegrina dove lei ha appena fatto una commissione. Piove ma solo durante i 10 minuti in tragitto in auto. Che giornata perfetta. Ci vediamo, ci salutiamo con un calciato sul piede. Sta molto bene con la mascherina. Sono proprio felice di vederla. Chiacchieriamo di cose varie e ci aggiorniamo su fidanzati, parenti, cose così. Torno a prendere l'auto, sul tragitto faccio un'ultima tappa, la libreria. Quanto tempo che non vedevo una libreria. Compro un libro di Zero Calcare e uno di Sally Rooney. Esco solo perché mi sento fisicamente provata, ma avrei voluto stare lì ad impararmi tutti gli scaffali a memoria. Alle 3:30 del pomeriggio sono di nuovo alla mia casa vecchia, invasa dagli scatoloni e dal caos, e mi stendo sul divano, senza pranzare. Mi risveglio alle 6:30 perché mi videochiama un'amica e ci raccontiamo cose, soprattutto ci facciamo 2 risate e pianifichiamo di rivederci a Milano. Poi, alle 7, spritz su Messenger con qualche amico per brindare al mio rogito. Abbastanza ubriaca accendo la TV, sento la Gruber che domanda cose a Sallusti. Faccio giusto in tempo a farmi la doccia prima che inizi Propaganda Live. Che giornata meravigliosa! Take it from me. All of what I know. Lay there beside me and show your warmth. It's hard to find peace buried in some deep. I can only hear the world is shouting. All I see is how it all. Find my peace, love I feel. It's time to fall for a new day. Oh, from silence to a new state of mind. Heard a whisper. Something said so sweet, not quite as ever. We'll leave this scene. Show no fear, things we can't control. Hoping that you see how. Lo dicevamo la scorsa puntata o due puntate fa, la storia che vi stiamo raccontando di questo figlio scampato al padre che ha ucciso la madre e poi ha tentato di uccidere lui è una storia che ad ogni tassello che aggiungiamo ci dice qualcosa di più e ci fa capire come al di là, nel momento in cui qualcuno in una famiglia compie un gesto così inspiegabile, così truculento, così criminale, apre una miriade di questioni, di domande inevase, di dubbi da parte ovviamente dei suoi parenti, in questo caso di suo figlio, ma probabilmente anche da parte di chi l'ascolta una storia come questa, perché ad esempio una delle varie sfaccettature di una storia come questa è: che cosa pensa la gente intorno a te quando la viene a sapere, quando viene a sapere che tuo padre ha ucciso tua madre e ha cercato di ucciderti? Cosa pensano i tuoi amici e in che modo si rivelano amici oppure no? Ecco, in questo episodio cerchiamo non di rispondere ma di farci queste domande. Quando in un gruppo di persone lo dici a una persona, è facile che qualcuno poi in camera dice: ma sai cos'è successo? Io so questa cosa. No, non te lo posso dire, vabbè, te lo dico. Capisco la riservatezza rispetto alla tua storia, la capisco perfettamente, ma cioè, pensi di avere anche un po' di resistenze perché sei preoccupato un po' del giudizio, cioè su di te. Dopo che ho confidato la mia storia ad Alessandra, mi sono sentito subito più leggero. Poter condividere con altri i propri traumi è stata una maniera per elaborarli ed accettarli di più e meglio, ma ho commesso qualche leggerezza. Sulla scia dell'entusiasmo mi sono aperto anche con qualche altra persona di cui mi fidavo. Si trattava di un paio di cari amici, ma inevitabilmente la storia della mia famiglia si è diffusa in tutto il giro di studenti che frequentavamo. Nel giro di pochi mesi lo hanno saputo tutti. Molti si sono avvicinati e ho scoperto amici che non sapevo di avere, ma molti invece mi guardavano con quella curiosità morbosa simile a quella che ti fa rallentare e buttare l'occhio quando c'è un incidente sulla strada. In molti mi hanno giudicato e mi hanno dato molto fastidio. Quando io ed Alessandra abbiamo cominciato ad uscire insieme, una nostra amica comune che aveva saputo di mio padre le ha consigliato di smettere di frequentarmi. «Non mi piace», le ha detto, «sai quello che ha fatto suo padre?» Era una persona che conoscevamo, posso dire anche un buon amico, e il sentire un giudizio così greve è stato davvero un brutto colpo. Io ed Alessandra ne abbiamo parlato molto. Io ho avuto una crisi, mi sembravano davvero ingiuste quelle parole e mi sentivo impotente. Quello non è un ragionamento, è un pregiudizio discriminante. Quando succedono determinate tragedie, non si può giudicare così. Ci sono persone coinvolte che hanno pensieri, sentimenti, pregi, difetti. Per nostra fortuna Alessandra ha saputo guardare oltre, ha abbandonato l'amico ed è rimasta con me. Ma ha scelto me, e ce lo diciamo tutti i giorni, e non per la storia che ho alle spalle. Questo mi è successo e dispiace sia a me sia a lei, ma ha scelto me per quello che sono. Dopo che abbiamo incominciato a stare insieme, lei ha insistito per conoscere mio padre. Prima ha voluto che io conoscessi i suoi. Sua madre da subito mi ha trattato come se fossi suo figlio. Sapeva tutto e non mi sono sentito giudicato per nulla, nemmeno per un secondo. L'occasione per Alessandra di conoscere mio padre invece è stata la mia laurea. Lui ha ottenuto un permesso e ha assistito alla discussione. Ero più teso per l'incontro che per la discussione della tesi, ma è andato tutto bene. Anche papà si è subito affezionato a lei. Era molto commosso ed è stato un altro passaggio importantissimo nella ricomposizione di un rapporto tra di noi. Questa è una di quelle storie che non danno nessuna risposta. È chiaro da quando abbiamo cominciato a raccontarla, anche quando ne avevo parlato con Mauro, che ha incontrato il protagonista di questa storia e l'ha resa raccontabile. Ecco, non danno nessuna risposta. Non danno nessuna risposta vuol dire per me che ogni pezzo di storia che viene fuori, ogni piccolo episodio che aggiungiamo, ogni tassello, in realtà apre una miriade di altre domande. Che probabilmente è giusto porsi non solo per quanto riguarda il rapporto tra un padre e un figlio, a prescindere, certo che sono, grazie al cielo, un numero esiguo le persone il cui padre ha ucciso la madre e ha cercato di uccidere loro, ovviamente, Eppure questi, un po' come le grandi tragedie greche, questi temi, questi fatti interrogano tutti noi sul rapporto tra gli esseri umani e tra familiari. Ripeto, anche fortunatamente, se una cosa del genere è una cosa assurda, incredibile, che fortunatamente non succede così di frequente, ed è per questo che sono molto molto grato al ragazzo che ha deciso di raccontarci questa storia, al modo in cui ce l'ha raccontata, all'onestà con cui l'ha fatto e con cui si è aperto ai nostri microfoni e quindi anche alle vostre orecchie. Ovviamente ringraziando lui, ringraziando Alessandra, la sua compagna, ringrazio Mauro Pescio, ringrazio Luca Micheli, Anita Panizza e Paolo Corleoni. Sentiamo il GR e poi torniamo domani puntualissimi a raccontare storie, che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!